Cambia tutto vivere sotto pressione. Certe persone le spremi e si svegliano, altre crollano. Non è Berlusconi, è Al Pacino nell'Avvocato del Diavolo. 800240024, numero verde. Giorgio De Luca, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia e Max Allegri. Max Allegri venne il giorno, anzi la notte per la verità, in cui esplose detonatore, primo risultato imprescindibile della stagione centrato. Un sacco di pressioni su chi si sente in fondo sopportato e certe paroline di Arrigo Sacchi. Boateng, ci prova lui col destro! Il Sharawi, lo Zest, la gira, la rete, era proprio Mario Balotelli. Boateng, prova il sinistro, Boateng, la serata di Kevin Prince, Boateng, 3-0. Ormai è un paio d'anni, ora magari stasera deciderò se magari domattina darò le dimissioni e quindi visto che ho finito l'annata dell'anno scorso vedremo. L'ho detto ai miei amici, se all'età di 60-65 quando smetterò di allenare, spero di arrivarci perché magari smetterò anche un po' prima, vado a dire certe robe, chiamatemi un dottore bravo. Che forse è meglio, preferisco magari verso quell'età lì andarmene al mare, magari su un gommone. È ormai 2 anni che comincia la partita, anche nell'amichevole se pareggiamo Allegri sulla graticola, quelli che scrivono sempre Allegri sulla graticola, da 3 anni, che noia. Il dopo partita è stato anche meglio del match col PSV Eindhoven, che pure è stato bello, intenso, interessante, con un bel Milan, una squadra che ha voluto questo risultato, l'ha centrato con tutte le forze che aveva. Cercatemi un dottore bravo, se, senza citarlo, diventerò come Arrigo Sacchi a dire certe cose. Ma vivere sempre sotto pressione non si può, non può neanche Max Allegri. Io capisco e appoggio questo sfogo. Poi c'è stata anche quella parolina, magari mi dimetto, che Galliani ha commentato così. Ma quale pompiere? No, veramente, non creiamo il caso di una battuta. Vi assicuro in maniera assoluta che era una battuta di spirito e un po' di poco spirito, ma lì finisce. Assolutamente, non scherziamo. Vabbè, a proposito di battute di poco spirito, dice Galliani, c'è chi mi scrive, se non fa battute su Berlusconi non è contento, ma perché non va di nuovo in vacanza? Ma ci vado volentieri, caro ascoltatore, non penso di coprirmi di ridicolo, anche perché non mi pare di aver fatto queste grandi battute su Berlusconi. Andrea Schianchi, inviato dalla Gazzetta dello Sport, scrittore parmigiano, amico di Arrigo Sacchi, nonché mio, ciao. Ciao Carlo, amico anche di Ancelotti, di Allegri. Di Ancelotti, di Allegri, certamente, profondo conoscitore di quell'ambiente. E gli amici di Radio 24. Senti, ma allora, Max è sbroccato, non si può vivere sempre sotto pressione. Ma no, ma è comprensibile, dopo una partita comunque tirata, giocata bene, vinta bene, insomma è normale che magari salti il tappo della bottiglia, sono cose che possono assolutamente capitare. Certamente Allegri se l'è presa con qualche critica che gli ha rivolto Sacchi, e sappiamo quanto Sacchi comunque insomma nell'ambiente Milan abbia ancora un peso. Sicuramente non gli è piaciuta tutta la telenovela di quest'estate, l'incontro di Arcore eccetera, il fatto che inutile nascondercelo, lui sia stato sempre difeso solo da Galliani, quindi insomma certamente questo non gli ha fatto piacere, non fa piacere a nessuno essere sempre messo, diciamo così, sulla graticola, sì. Addirittura alle volte sotto accusa. Sì, ma è lui che ha scelto di restare al Milan, Andrea. Ha voluto fortissimamente restare. No, ma lui alla fine della fiera, certamente lui ha commesso degli errori, perché li commettono tutti, quelli che lavorano commettono sempre degli errori, ovviamente in buona fede. Io credo che la parabola, diciamo così, o comunque l'avventura di Allegri vada vista con un minimo di distacco e vadano capite certe cose. Lui l'anno scorso ha fatto una specie di miracolo portando il Milan ai preliminari, o come si chiamano adesso, sì, playoff di Champions League. Quello che è, insomma. Ecco, lui secondo me ha sbagliato la seconda stagione al Milan, quella, diciamo così, del dopo scudetto e del primo scudetto di Conte. E questo è un mio parere assolutamente personale, secondo me lui ha sbagliato nell'avallare la cessione di Pirlo dopo il primo scudetto, non tanto perché Pirlo potesse essere fondamentale per il suo gioco, perché lui, sappiamo, non lo gradiva più di tanto. Appunto. Ma nel liberarlo, si è andato a rinforzare la principale avversaria, che poi ha vinto lo scudetto. Questo secondo me è stato un peccato originale. Sì. Un peccato, forse il peccato originale di Allegri. Senti, Andrea, Galliani è il suo più grande alleato all'interno della società. Non anche Galliani non ha gradito, hai sentito quella battuta che ha definito di poco spirito di Allegri su magari domani mi dimetto. Cosa succede? Non ci sono ovviamente notizie di dimissioni o di chissà che cosa, perché è così, come è naturale, ci si concentra sul mercato. Insomma, adesso cosa succede al Milan, secondo te? Ma io credo che adesso il Milan cercherà in tutti i modi di portare a casa Matri. Sì, quello che ieri è stato citato e evocato dai tifosi su uno striscione, perché anche i tifosi in Italia fanno mercato. Matri no, grazie. Una difesa e un centrocampo da rinforzare, non c'è altro a cui dovete pensare. Sì, io Allegri ritiene Matri fondamentale, perché evidentemente al Milan sanno che purtroppo Pazzini può avere ancora dei problemi, ancora, quindi insomma l'infortunio è abbastanza serio e abbastanza pesante. Io personalmente credo anch'io che il Milan dovrebbe rinforzarsi soprattutto in difesa. Magari a centrocampo ci si può arrangiare, ma in difesa secondo me il Milan dovrebbe rinforzarsi. Loro la pensano diversamente, d'altronde la filosofia societaria sappiamo benissimo qual è: tra un ottimo difensore, un ottimo attaccante o mezza punta, loro prendono sempre l'attaccante o la mezza punta, per proprio una filosofia aziendale. Sì, filosofia aziendale, e poi è chiaro che i titoli li vinci, ma anche questa è una banalità vecchissima, i titoli li vinci prendendone pochi, che siano di gol, canestri, punti, quello che vuoi. Ah, è assolutamente così, tant'è vero che io sostengo che le grandi squadre nascono prima dai grandi portieri e poi dalle grandi difese. L'ho scritto anche in settimana a proposito della scomparsa di Gilmar, il grande portiere brasiliano. Sì, cioè sì. Non, tutto nasce là dietro. Dopodiché, questa è una loro filosofia. Io sostengo che il Milan abbia perso di più cedendo Thiago Silva che non cedendo Ibrahimovic, perché i gol di Ibrahimovic in un modo o nell'altro sono replicabili, arrivano. Ma a questo proposito, secondo me, io vedrei bene qualche rinforzo a centrocampo anche dal punto di vista della personalità, ma voce alla quale il Milan è un po' deficitario. Mi sembra, primo, che l'intensità della partita di ieri stia a dimostrare come Verona sia stato forse un rischio calcolato, questo non lo so, forse esagero io, però a fine agosto due partite a 100 all'ora non riesce a giocarle, cioè tre partite in una settimana a 100 all'ora non riesce a giocarle. Secondo, mi sembra che al di là della filosofia societaria l'attacco sia il migliore dei problemi, perché sì, velocità, verticalizzazioni, talento fisico eccetera eccetera, mi sembra che il Milan sia assolutamente completo. Però non è che sia vera quella voce secondo cui Allegri non gradisce più di tanto il Shaarawy? Ma questo io, penso io che lo gradisca o no, questo sinceramente non lo so. Certamente Shaarawy è in un periodo di involuzione, questo qui è inutile nasconderselo. Certamente l'arrivo di Balotelli lo ha, diciamo così, un pochino emarginato. Certamente lui fa fatica a giocare con un centravanti come Balotelli, inutile nasconderselo. Perché se prima andava al tiro 7 volte a partita, adesso ci va a 3, è chiaro che se hai meno possibilità fai anche meno gol. Sì. Io sono uno di quelli che non pensa che e Charlotte fosse un top player prima, e secondo me non lo è neanche adesso. Per il momento no. No, bah, sai, per il momento è un buon giocatore, è un buon giocatore, sul quale però non è che puoi costruire una squadra, non è che ci puoi costruire una squadra attorno. Io credo che il Milan ieri abbia costruito gran parte del successo sulla, l'ho scritto anche sull'asse De Jong Boateng, perché comunque uno è molto solido, recupera tantissimi palloni, l'altro ha questi strappi improvvisi che mettono in crisi le difese avversarie. Ora, questo è probabilmente più utile in Europa e forse meno in Italia, dove gli spazi sono più ristretti, sì, perché si difendono in nove, sì, e sì, quindi sì, diventa difficile, diventa. Sì, comunque Andrea, aspettando Godot, che poi sia Tohir, che sia Beto, non più perché fa le visite mediche a Londra, Matri, sì, o qualche top player da una parte o dall'altra, che non arriveranno, perché ho detto aspettando Godot per l'appunto, io immagino il derby, non dico più depresso, ma con meno charme degli ultimi anni a Milano. No, beh, su questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio, dal punto di vista del gioco perlomeno sì. Guarda, io ho visto, non dico tutte, ma quasi tutte le partite di Serie A tra registrate e in diretta, e devo dire che ci sono poche squadre che giocano a calcio o che cercano di giocare a calcio. Io vedo dei gran palloni lunghi, non lo so, però andatevi, io dico sempre agli allenatori, ma in Europa sono più stupidi di noi, che giocano in un altro modo e vincono. Cioè, cerchiamo di copiare quello che è meglio, magari non avremo la stessa qualità, ma ci proveremo. Sono certamente meno tattici di noi, meno seghe mentali dal punto di vista tattico, questo è certo. Forse se il Real Madrid gioca in un certo modo, se il Barcellona, ma se il Real però gioca in casa, gioca due partite l'anno, eh? Cioè sul fronte interno, il campionato spagnolo, che secondo me sta diventando davvero quasi indifendibile, indifendibile. Sono d'accordo, però poi dopo, sai, vanno a giocare anche all'estero e vincono anche all'estero, dopo vanno, ma io guardo anche il Bayern di Monaco, tanto per dire, il Bayern di Monaco gioca anche partite vere, magari anche qualche problema, perché ha avuto qualche problema ad esempio con il Friburgo, però cercano di giocare a calcio, e noi invece prendiamo sto benedetto pallone e lo buttiamo avanti. Ma non sto parlando delle top squadre, sto parlando anche delle squadre minori, parlo del Parma, dell'Atalanta, del Chievo, e questo secondo me è sbagliato, cioè non cercare il gioco secondo me alla lunga è sbagliato. Alla lunga è sbagliato. Un'ultima cosa a proposito di Parma, della squadra della tua città, nonché di quella di Arrigo Sacchi, ma Cassano come sta andando? Fuori dai venti? No, secondo me sta andando abbastanza bene. Si allena? Secondo me... Sì, si allena. Non c'è da rincorrere col bastone? No, secondo me si sta comportando bene, io credo che possa essere un valore aggiunto, però penso che questa squadra, mi riferisco al Parma appunto, debba avere più coraggio, cioè se hai Cassano e le squadre del tuo livello non ce l'hanno, devi avere più coraggio, devi proporti di più, devi essere un pochino più sfrontato, ecco. Andrea, grazie. C'è chi mi invita ad ascoltare Radio Padania per imparare a fare giornalista. Obbedirò. Benissimo. Risponderò, rispondo, obbedisco. Grazie Andrea Schiavi. 800240024, numero verde. Si parla di Milan e c'è Marco che dorme. Vabbè, cosa dobbiamo oggi? Cioè, mi sembra che il tema di partenza, poi ovviamente siete convocati ogni giorno per dire la vostra. Volete parlare di campionato del mondo di frisbee? Siamo qui apposta. Pino Pescara, buongiorno. Buongiorno Carlo. Dica. Niente, io volevo parlare un attimo di Allegri, appoggio completamente il suo sfogo di ieri sera, conoscendolo anche da un po' da pescarese, anche lui ha giocato nel Pescara, certo, con Leo Junior, certo, eccetera, e me lo ricordo che era un caparbio, ed è un caparbio anche oggi, cioè il fatto di non lasciarlo allenare una squadra giovanissima, perché vabbè, a parte alcuni, ma comunque questa sarà una squadra, io parlo da juventino, e ho tifato sia l'andata che il Milan, dice il Milan non è una squadra giovanissima. No, è giovanissima, appunto per questo credo che questa squadra abbia ancora da rodarsi per un anno e mezzo o due, dopodiché esploderà, perché poi sono corsi e ricorsi storici. Sì, poi serve insegna, Inter insegna. Sì, ma serve un po' più di qualità. Poi io sono d'accordo con lei se diciamo che il Milan è una squadra comunque giovane, questo era necessario. Se diciamo che De Sciglia è un giocatore che a me piace moltissimo e che è un boccia, cioè un bambino, così come sono bambini o poco più gli attaccanti, perché sono lì da vedere, quindi grande talento Milan, certamente. Esatto, no Carlo, abbiamo la stessa idea, voglio dire, comunque sia, io ho tifato Milan perché credo in questa squadra, anche pur essendo juventino, nonostante, senza fare polemiche, Italia-Argentina, ci sono stati alcuni che hanno tifato Argentina per via di Higuaín, insomma. Cioè, credo che a livello internazionale l'Italia debba essere Italia, rispondendo anche ad Andrea, il giornalista. Andrea Schianchi, ma Pino, però ci sta anche la gufaggine, ci stanno anche quelli che dicono che me ne importa del ranking UEFA, io tifo in maniera sana, sportivamente sana, per il PSV Eindhoven, questo ci sta. 800 24 00 24, numero verde Strade, poi di nuovo qui. Stasera sono abbastanza polemico. Tutti convocati. C'è chi parla come i miei amici convocati all'800 24 00 24, e chi scrive, oltre che su Facebook, Twitter e tutti i vari social network cui siamo collegati, messaggi 349-238-6666. Luciano Viella estremamente cattivo con Marotta, in maniera secondo me non tanto giustificata, scrivendo: Marotta cede madre per tenere mediocrissimo Llorente, 15 milioni spesi per un giocatore come Ogbonna, non sicuramente da Juve, è possibile che nessuno se ne accorga che Marotta è un incapace. Luciano, non sono d'accordo, perché il mercato della Juve mi è sembrato eccellente. Llorente lo dobbiamo vedere, lo dobbiamo scoprire, deve inserirsi, secondo me può essere un giocatore estremamente importante, estremamente funzionale. D'altra parte risulta che sia stato appena richiesto dal Barcellona, la Juventus ha detto di no. Ogbonna non è un giocatore da Juve, secondo me lo è, e come, non dimentichiamo che un paio di anni fa Bonucci non se lo voleva pigliare nessuno, per non parlare di Barzagli. Giuseppe, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi convocato. Grazie a lei di aver risposto. Allora, sono tifoso milanista. La partita di ieri sera a me non è che mi ha impressionato più di tanto, sinceramente. Cosa poteva fare il Milan di più? No, non per il risultato, perché io sono 2 anni che vedo giocare il Milan in modo veramente non consono al suo modulo di gioco, secondo me. Ma perché? Giocare perché è in difesa. Abbiamo dei difensori laterali che non sono dei difensori laterali. Se lei va a vedere il gol che abbiamo preso l'anno scorso a Torino con la Juventus, vedrà il terzino della nazionale che guarda per l'aria, dice salto non salto, salto non salto, il pallone gli è passato davanti, dovuto ricorrere e ha dovuto stenderlo. Mi scusi Giuseppe, quale terzino della nazionale, visto che sono terzini della nazionale entrambi, quindi o magari si sbaglia, no, lei o si sbaglia Prandelli? Abate e De Sciglio, tutte e due sono terzini della nazionale. Ma anche Costa, non sono terzini, non hanno la più pallida, sono bravissimi come giocatori, sono buonissimi nella fase offensiva, ma non sono terzini, proprio non hanno la posizione, non hanno la posizione in campo per essere terzini. I problemi del Milan in difesa vengono tutti da lì. Quei giocatori lì sono bravissimi, se li fai giocare a centrocampo, a mio parere. Il nostro allenatore, che per carità capisco perché è stato criticato in questi anni, però ha le pezze di salame sugli occhi, secondo me, perché gliel'ha detto anche il Calamai, che era ospite ieri da lei. Le difese forti devono avere 3 difensori. Sì, però io continuo ad affermare che nel calcio di oggi non si può parlare tanto di difesa quanto di fase difensiva. La Juventus insegna, ma per le ragioni che ho detto prima, la Juventus è una squadra che ne becca pochissimi, ma non è che in difesa abbia Beckenbauer, Kroll e Dialma Santos o chi volete voi. A quelli che conosciamo, quindi io credo che proprio per questo dico, forse sarebbe il caso di pensare a un po' più di personalità in mezzo al campo, perché è un'intera squadra che, al di là delle singole colpe specifiche che possono esserci, è un'intera squadra che gioca la fase difensiva. A proposito di quello striscione, Salvatore da Vicenza e Carlo provincia di Como, Fabrizio da Padova, quello striscione, Matrino Grazia è una difesa e un centrocampo da rinforzare, non c'è altro cui dovete pensare. Apparso ieri a San Siro, perché come sappiamo i tifosi fanno il mercato dalle nostre parti, perché siamo fatti così, ha risposto Galiani. Io ho grande simpatia per la curva, è stata vicina a noi sempre, voglio bene a tutti questi ragazzi, ma non è che uno striscione messo magari da 5 persone, 3 persone possa determinare un mercato in una società, e lo dico con grande affetto verso la curva, e loro sanno che gli voglio molto bene, ma il nostro allenatore, che è il responsabile tecnico della nostra società, vuole assolutamente una prima punta, non una seconda punta, né tantomeno un centrocampista o un difensore. Quindi colpa di Allegri, è lui che vuole Matri, mica il diktat presidenziale o la filosofia di mercato rossonera, è Allegri, guardate che è lui che vuole Matri, fosse per noi magari un difensore, ma poi il resto ci sta, al di là della eccessiva sviolinata nei confronti della curva. Quella magari poteva risparmiarsela, il senso invece è quello corretto, non possono essere loro a determinare il mercato di un club. No, Salvatore. Buongiorno Genta, grazie. Buongiorno. Per avermi convocato. Grazie a lei. Io voglio essere un po' duro col Milan, io sono un amante del calcio, non sono tifoso del Milan, però onestamente sia l'anno scorso, e lasciamo stare anche il suo collega giornalista che diceva sì, però hanno fatto un seconda parte di campionato Allegri, vabbè, è stato aiutato, ha avuto molti aiuti la seconda parte del campionato. Vabbè, ma aiuti, Milan, aiuti quali? Dice gli arbitri eccetera. Io direi di sì, ma lasciamo stare l'anno scorso. No, vabbè, lasciamolo stare, se vuole lo lasciamo stare, altrimenti se vogliamo rimanere su questo discorso. Io rimuovo i singoli episodi, se devo dire la verità, mi resta in mente invece un Milan che con un Allegri che con quello che aveva ha giocato un girone di ritorno abbondante e strepitoso. Vabbè, quello che aveva bisogna poi ripetarlo, voglio dire, non è che il Milan adesso è diventato il Chievo oppure il Sassuolo. No, ma neanche la Juventus o il Napoli. Però voglio dire, ecco, poi quest'anno il Milan, che si è battuto ieri, come diceva l'ascoltatore prima, non è che ho visto un grande Milan, stavo messo sotto 20-25 minuti dai ragazzini del PSV, ma proprio sotto alla grande, voglio dire. Almeno quello ho visto io. Lei si riferisce dire all'inizio del secondo tempo? Sì, esatto, era 1-0 lì. Ragazzi, ma è finito, sì, ma giocava anche nemmeno il PSV Eindhoven, il Chievo, la Cararese di Buffon. Però è una squadra da 4-5 ragazzini, altri sì, 4-5 ragazzi, ma ci sta anche in una partita che vale così tanto, con così tante tensioni, con così tante attese, ci sta a vivere un po' di sofferenza, non è neanche detto che faccia male. Poi quanto cosa dica. Su Balotelli, no? Qualche giorno fa ho sentito ma aspettiamo a vedere Balotelli, quest'anno potrebbe essere l'anno, no? Sì. Balotelli è partito già col piede sbagliato, perché già Verona avrebbe dovuto essere espulso e avere due giornate di squalifica, perché ha mandato a fanculo l'arbitro in modo plateale. Voglio dire, Balotelli poteva beccare, così, sì, poteva beccare il rosso, ma magari poteva beccarlo anche Gilardino domenica, quindi Balotelli come un Cassano, non lo so, ha iniziato con il piede sbagliato, troppe le ammonizioni e rischia di diventare un vizio endemico e capitale, troppo pesante per Balotelli. Questo è un difetto assolutamente da eliminare, perché ieri sera ne ha beccato un altro, però ha iniziato con il piede sbagliato, ma ieri sera mi sembrava quello giusto, poi mi sbaglierò io, ma non dimenticatevi che io prendo i soldi per parlare bene di Balotelli, come pensate voi, come pensano alcuni di voi e come magari è vero, non lo nego né lo ammetto. Allora, a proposito di qualità del gioco del Milan, mi sembra invece che la rapidità, che l'imprevedibilità, che l'estro di Balotelli e del Sharawi e ieri anche di Boateng sia qualcosa di estremamente divertente. Almeno, secondo me, ieri sera ho visto questo, mi sono divertito in alcuni frangenti, in alcune verticalizzazioni improvvise, accelerazioni improvvise e violente del Milan di Allegri. Poi non è una squadra perfetta e questo lo sappiamo. Carlo, provincia di Como, vero o no? Sì, pronto? Sì, eccomi. Sì, sono in linea, grazie. Sì, volevo collegarmi all'estremazione ieri di Allegri, insomma, a me è venuto, io mi sono divertito finché ho visto la partita. Sì. Poi, quando una persona prende dei milioni e si lamenta per queste cose. Allora vado ad allenare l'Eco in interregionale, punto e basta. Che cavolo viene a fare in televisione a dire queste cose qua, quando c'è gente che sta a casa dal lavoro perché è stato licenziato? Ma stiamo scherzando? Adesso se si parla di calcio bene, se si vuole far ridere la gente per dire, ma cosa, piangere, però allora Carlo, però se la buttiamo tutto, no, ma se tutto. La buttiamo sempre sui denari, è difficile smentire chiunque. Certo, se no, però ma, se, no, però Carlo, mi scusi lei, se però se però lei ha un qualunque mestiere faccia, un principale che le pesta le croste tutti i giorni, magari rischia di così di sentirsi sempre sotto pressione e di avere delle lamentele, magari non davanti alle telecamere, ma alla macchinetta del caffè, dica. Ma ha voluto rimanerci lui al Milan, e sa che in quelle squadre la tensione è quella, quindi che lui vuole andare in pensione o meno, alla faccia di chi? Non prende un cavolo alla fine del mese, mi fa ridere, quella persona lì mi ha fatto ridere in quel momento lì, fino a prima ho visto la partita, punto e basta, lì si parla di calcio, quando invece si vuole come dire farci compatire, allora ok. Sì. A 3 o 4 milioni all'anno, due e mezzo che comunque non sono pochi, però ripeto, se la buttiamo sul denaro, allora allora abbiamo sempre ragione nel criticare qualunque atteggiamento e qualunque dichiarazione di qualunque sportivo al mondo, non solo nel calcio italiano, perché l'altro giorno citavo sbagliando clamorosamente per difetto Alex Rodriguez, ex campione molto dopato del baseball americano, che mi sembra l'ultimo contratto chiamasse 225 milioni di dollari. Poi ditemi voi, Allegri is nothing. Domenico, provincia di Napoli, e poi sentiamo la borsa. Salve, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo, premetto, volevo parlare del caso Allegri. Sì. Se è possibile. Come no? Niente, premetto che io sono tifoso del Napoli, credo che il Napoli sia una delle squadre molto forti in Italia. Sì. Non voglio commentare tecnicamente il Milan, per non offendere alcuni calciatori che hanno il diritto di non essere offesi. Voglio parlare soltanto della brutta pagina sportiva del caso Allegri. Dico brutta perché secondo il mio punto di vista il signor Allegri si trova in una situazione particolare. Cioè gli è stato chiesto tanto, però c'è metà società che lo vuole e l'altra metà della società che non lo vuole. Sì. E parlo proprio del presidente. Che cosa succede? Il suo sfogo non è tanto per i giornali, perché in effetti i giornali, se va male una cosa, ne parlano, no? Siamo d'accordo con questo. Però è dentro casa che lui si sente a disagio, cioè ogni volta che perde o va male qualcosa, l'altra parte glielo fa pesare. Sì. Dunque? Allora, dunque, io dico questo, è una brutta pagina che io non vorrei più vedere. Cioè io penso che un allenatore può lavorare come può essere esonerato. Però non può subire uno stalking, un mobbing addosso. Sì, va bene, ma però non va bene, Domenico, ma non mettiamola giù così, così dura, se no a Palermo, a Cagliari o a Genova, sponda Genova, non allena più nessuno. Quindi adesso non montiamo un casino mondiale. È semplicemente stato uno sfogo di un allenatore che ha le sue ragioni, punto. Non mi sembra una cosa così pazzesca. Ci fermiamo per la borsa, poi c'è Fabrizio da Padova, Gigi da Cagliari, 800 24 00 24, numero verde. Io quando ho visto la fotografia ho detto subito ai miei avvocati: chiediamo 100 milioni di danni a tutte le istituzioni. Tutti convocati. Volevo vedere questa zagara che gli hanno piazzato sul mento, anche perché così potremo fare causa finalmente a Capri e alla regione campana, perché io ne ho le scatole piene. Allora, di non avere... La zagara l'hanno vista ieri in spogliatoio, tra l'altro Higuain giocherà senza protezioni né altre cose del genere, quindi nessun particolare problema. Ebbene, ieri in spogliatoio hanno visto la zagara e Zemaili ha detto: con Higuain abbiamo riso tanto quando si è presentato nello spogliatoio col cerotto, l'abbiamo preso in giro. Se lo sa De Laurentiis. Abbiamo controllato, l'ultimo che ha telefonato non era il Mago Forest, come sospettava Roberto, autore di un SMS. C'è invece Tom da Bergamo, che invece ricorda la liaison tra Gagliani e la curva, vicinissima la curva Gagliani, infatti girava con la scorta fino a pochi mesi fa. Fabrizio Padova, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei di aver risposto. Dica. Ecco, allora, Milan, due cose velocissime. La prima riguarda Allegri. Io non sono d'accordo con chi dice che perché prende soldi ma neanche deve stare zitto, neanche io lo sono. È una persona umana come tutti, quindi a un certo punto le scatole potrebbero girargli anche a lui. No, ma anche perché se no non possono più fare niente. Allora ti pagano zitto, muto e pedalare. Vabbè, esatto. Sai che noia, no? Esatto. E per quello che riguarda la scissione della curva, io la penso come la curva. Cioè io non capisco Allegri, che secondo me ha fatto una cosa grandissima l'anno scorso, perché vuole un'altra prima punta, perché Balotelli è prima punta, allora non capisco se vuole giocare, cambiare modulo, ma non abbiamo il trequartista, o che cosa serve Matri. Anche perché, vi do uno spunto così, l'anno scorso il Milan ha fatto 4 gol in meno della Juve, ma ne ha presi 15 in più. Non so dove bisognerà andare a intervenire. Insomma, penso che le statistiche parlino da sole. Sì, ma al di là delle statistiche, basta guardare la squadra, sono d'accordo anch'io con lei. Insomma, Balotelli è una prima punta che dà il meglio quando gioca prima punta. L'anno scorso il Milan comunque era pericoloso anche con Echarawi prima punta. Se diciamo che Petagna è incedibilissimo, come ha detto Galliani, se diciamo Pazzini che... incedibilissimo. No, Pazzini, va bene, Pazzini però rientrerà tra un po'. Un dubbio può essere questo, ma mi sembra che se il Milan crede in Petagna, come ha detto Galliani, crede in Niang, che è uno un po' bislacco, ma che ha grande talento anche lui, fisico e tecnico, vabbè, allora per quale ragione andare a imbottire con altri piedi e pretese di campo? Perché Matri è uno che ha voglia di giocare, non vedo perché andare ad aggiungere ancora attaccanti. Ripeto, secondo me io non vedrei male qualche rinforzo in mezzo al campo, forse più che in difesa, perché Milan mi sembra una squadra che a centrocampo ha esigenza di piedi buoni, di personalità. Adesso si fa un gran parlare di De Jong, non mi sembra questo mostro di giocatore, questo giocatore che ti cambia la squadra. È uno che insomma gioca in 5 metri, cioè il passaggio più lungo è 8 metri. Mi sembra che il Milan abbia bisogno di qualità e di fisico in mezzo al campo, di una registrata in mezzo al campo, per dare senz'altro una mano a Montolivo. Un giocatore imprescindibile in questo Milan credo sia Multari, per il suo dinamismo, per i suoi muscoli, perché è uno che va a chiudere i buchi, che aiuta la difesa, che si sbatte, che non ha nemmeno dei piedi così ignoranti come molti pensano. Però lì in mezzo serve qualcosa di più, secondo me. 800240024, dunque andiamo, eccolo là. Enzo Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno, grazie per la convocazione. La vista la zagara a lei? La zagara di Higuain, no? I numeri, noi ci giochiamo i numeri qua a Napoli su... Io ne ho vista, Enzo, ne ho vista una meravigliosa ieri, grazie a Giorgio De Luca, la statuetta del presepe di Higuain con la zagara, con la benda, eh. Immaginavo. Meraviglioso. Io volevo parlare un attimo del nostro presidente, perché ogni volta... Ne parli bene, se no faccio cadere la linea. No, assolutamente. Ogni volta che siamo con mio figlio a tavola e c'è un servizio dove si parla di De Laurentiis, dice, ecco, ci guardiamo negli occhi e sorridiamo, perché è un vulcano, uno può anche dissentire, però un personaggio così comunque fa bene al calcio. Ma anche secondo me, insomma, non sto scherzando quando dico queste cose. Io insomma stravedo per il presidentissimo, e guai a chi me lo tocca, Aurelio De Laurentiis. Poi magari c'è qualche ascoltatore che dice, ma visto che guadagni un sacco di soldi con il cinema, non può parlare neanche lui, perché i ricchi non parlano, né Allegri perché prendi soldi, né De Laurentiis perché è ricco, tutti zitti, muti, comprare, pedalare, produrre spettacolo calcistico. Questo è il diktat secondo qualche ascoltatore. Allora, per me è sempre domenica, anche quando è giovedì come oggi e piove o comunque non c'è bellissimo tempo, se posso fare due chiacchiere con il mondo Emiliano Mondonico. Ciao. Buon pomeriggio a tutti. Com'è in campagna? Piove? Ah, sai che sono in campagna, sono sulla Sapri in Napoli, perché sto arrivando a Napoli, ti dirò che c'è un bel sole, c'è un bel clima, beato, c'è una te. Bella acqua, e qui l'estate continua. Cosa vai a fare a Napoli? Vai a trovare Benitez? No, sono andato a Sapri perché ci sono degli amici che mi hanno invitato, mi hanno dato un premio come rappresentante degli anni 60 e lì mi sono sentito veramente molto, molto, molto, molto vecchio. Mi hanno invitato per tre giorni, mi hanno portato dappertutto e ti dirò, meno male che un briciolo di coscienza nel mangiare, altrimenti sarei diventato un vitellino. Ma quale rappresentante degli anni 60? Tu sei un personaggio 2.0, mondo. No, quello sì, però sai, gli anni 60 perché hanno una... Guarda che sto entrando in una galleria, perciò sì. Se vado via Sì, se vai via poi ti riprendiamo. Sei andato via, Emiliano, ti ripigliamo subito all'uscita di quella galleria. Antonio da Verona, intanto. Antonio. Aspetti, Garcia, stai lì, che ti passo Mondonico tra un po'. Antonio. Prego. Dica. Sì, salve. Senza cattiveria, parlate sempre di Milan. Vabbè, mi sono un po' stufato. Ma dopo parlate anche delle famiglie che non possono andare allo stadio con i bambini perché c'è troppa cattiveria, dai. Vabbè, ma quando, anche di questo. Ma Antonio, ciao, quando andavano le famiglie? Ma io sono stufo di questo luogo comune. Lo sento da chiunque e accetto repliche da chiunque, da Prandelli in giù in su, da tutti gli allenatori ben pensati. Ma quando ci andavano le famiglie allo stadio negli anni 70, ma ve le ricordate cos'erano gli stadi? Ma li avete visti? Ma li avete vissuti? Io la mia frequentazione parte dalla metà degli anni 70, prima non saprei dire, cioè chi dice anni 50-60 volava qualche schiaffone, ma erano luoghi frequentabili, anche perché negli anni 50-60 erano stadi moderni. Adesso sono dei pollai. Quando ci andavano le famiglie allo stadio negli anni 70-80, quando andare allo stadio era sempre a rischio di agguato per tutti, bastava portare la sciarpa sbagliata. Negli anni 90, quando c'era una carica della polizia ogni 5 minuti dentro lo stadio, ma le cariche dentro lo stadio, ma ve le ricordate oppure no? O andiamo avanti a dire che prima andavano le famiglie allo stadio, andavano i matti con le famiglie. 800 24 00 24, non so se il mondo è uscito dalla galleria, non ancora. Mirko Bologna, buongiorno. Ciao, buona giornata. Buona giornata. Ascolta, sono completamente d'accordo con te per il discorso stadio anni 70-80, li ho vissuti ed era molto ben peggio della situazione attuale. Ma sì, a me fanno impazzire, mi fanno impazzire i luoghi comuni. Ora, gli stadi di oggi certamente non sono luoghi raccomandabili, ma almeno le cariche della polizia dentro lo stadio, cosa che accadeva tutte le domeniche, quelle non, almeno non le vediamo più. Poi se discutiamo di violenza verbale, di razzismo, di porcate varie, allora d'accordo, però ci vuole anche un minimo di memoria storica. Ma alla fine degli anni 70, complice il clima che c'era, politico, eccetera, d'accordo. Ma chi ci andava con i bambini? So benissimo com'erano. Ascolta una cosa, non sono d'accordo con te per quanto riguarda il Milan, per quanto riguarda Allegri, nel senso che ritengo Allegri un allenatore molto sopravvalutato, molto sopravvalutato soprattutto perché ha fatto degli errori madornali nel Milan. Il fatto di aver dato di via Pirlo, non diciamo che è colpa della società, è colpa sua, perché dar via uno tra i tre migliori centrocampisti a livello mondiale, ma sì, secondo me l'errore mortale, Mirko, un allenatore può anche dire Pirlo non fa parte del mio gioco, ha ragione o ha torto, può dire una cosa, lo dai alla Juventus, quello che dico io è questo, non lo dai alla Juventus, ma quando hai in mano una persona così, se non sai assolutamente gestire un giocatore dai piedi sopraffini, cioè lo vorrebbe chiunque un giocatore così, vuol dire che già hai, secondo me, una mente limitata. Non dimenticare però che Pirlo chiedeva a 32 anni, reduce da diversi acciacchi, chiedeva un triennale al Milan, chiamando molti soldi. Se abbiamo tenuto dei Max Ex, degli Epes e compagnia bella, l'Epes è andato via, ma i Flamini ancora lì. Sì, ma li abbiamo riempiti di soldi, anche lo stesso Montari, voglio dire, è un giocatore, cioè De Jong secondo me è un buon giocatore, nel senso che fa le veci che faceva Gattuso, tutto qui, non è che deve fare molto di più, casomai io mi aspetto molto di più da Montolivo. Anch'io mi aspetto di più da Montolivo dal punto di vista della personalità, cioè mentre da De Jong ti puoi aspettare il ripetuto passaggino laterale di 5 metri. A Montolivo chiedi qualcosa di più e di diverso, ma Montolivo l'anno scorso è stato quello che più mi ha sorpreso dal punto di vista impositivo, dal punto di vista della personalità, nel modo in cui si è calato nel Milan, tant'è vero che ne è diventato, a ragione secondo me, il capitano. 800240024, ma parlate sempre di Milan, ragazzi, parliamo pure di qualcos'altro, di quello che volete. Mi sembra che non sia che sia abbastanza l'argomento principe di questi giorni, ma voi siete liberi, eh? Bocce, va bene, freccette, va bene, siamo qui. 800240024, strade. Sono ostaggio, sono ostaggio. Tutti convocati. Un sacco di messaggi più o meno carini. Andrea, allora, Andrea, che scrivi? Ma Mondonica con la Bellucci, il magnate a zero, sospetto, nuovo compagno della Bellucci, ma queste sono cose che non so, anche se le approfondirò. Bene, Andrea scrive: il magnate a zero è identico. Questa gliela giriamo domani, quando il mondo sarà uscito dalle gallerie. Abbiamo preso, e lo dichiariamo pubblicamente, un appuntamento con lui per domani, quando sarà in campagna e ci potrà raccontare come stanno i suoi animali. Paolo, provincia di Rimini, Andrea da Modena, Sergio dalla provincia di Teramo. Paolo, buongiorno. Ciao Carlo. Ciao. Il tempo è bellissimo, però volevo parlarti della maledizione azzurra che colpisce la nazionale di basket, perché tutti rotti. Oggi anche Mancinelli ha dato forfè. Anche Mancinelli, a questo punto il prossimo convocato è bene che non accetti per la sua carriera futura. No, che prospettive vedi, considerato che è più difficile il primo turno che poi arrivare alle semifinali? Partiamo senza tantissimo ottimismo. Quell'ottimismo che ci aveva accompagnato, che ci ha accompagnato per un anno sulla suggestione di un torneo di qualificazione in cui siamo stati imbattuti, ottimismo che c'era anche all'inizio di questa preparazione, poi abbiamo cominciato a perdere un sacco di pezzi, poi abbiamo cominciato anche a perdere in maniera preoccupante diverse partite, quindi la vedo dura, la vedo durissima. Appunto, perdiamo anche Mancinelli, meglio rispondere alle convocazioni nostre e di Pianigiani, perché è giusto fare così naturalmente. Vorrei vedere anche qui, fare un discorso di personalità, vorrei vedere maggiore personalità da parte di quelli che ci sono, ad esempio Diner, non vedo perché a Sassari possa essere pericolosissimo, possa segnare spesso un trentello, mentre in nazionale debba limitarsi a 3-4 tiri. Io vorrei vedere Diner in nazionale giocare, non vedo perché debba giocare in modo diverso da Sassari. È chiaro, deve adattarsi ad altre esigenze, la squadra è differente e meno forte rispetto a Sassari probabilmente, però vorrei vedere maggiore personalità da quelli che ci sono. Questo è l'augurio che posso fare alla nazionale di Pianigiani, che avrà un compito difficilissimo la prossima settimana con quel girone infernale per approcciare l'europeo di basket, e senza un sacco di giocatori. Ed è un peccato che sia così. Ovviamente nessuno ci può far nulla, perché gli infortuni accadono, non solo a noi ma anche a molti altri, perché diverse stelle non ci saranno in questo europeo, però noi siamo stati particolarmente bersagliati dalla sfiga, questo è innegabile. Andrea, Modena, buongiorno. Buongiorno, dottor Genta, grazie per avermi convocato. Grazie a lei. E complimenti sempre per la trasmissione. Grazie. Dica, Andrea, i complimenti me li sono presi e poi Andrea è scappato, così non vale, lo riconvochiamo immediatamente. Allora, a proposito di stadi, violenze, famiglie, basta, io negli anni 80 andavo a San Paolo, mia mamma si faceva il segno della croce e pregava che tornassi sano Saverio da Somma Vesuviana, c'è che invece dice che adesso c'è più violenza, violenza fisica, ma dove? Che sia un ambiente mediamente malsano dal punto di vista dell'educazione va bene, ma non so, secondo me esageri, negli anni 70 si stava meglio. In che senso si stava meglio? Scrive, invito l'ascoltatore a rispondermi, magari al telefono e non via sms, se no il discorso non finisce più. Sergio, provincia di Teramo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno, senta, io riallacciandomi il discorso di personalità, non persona. Ah, grazie per avermi convocato comunque. Ah no, grazie a lei, si immagini. Parlando di questo, io cioè, non vorrei parlare di un discorso, il solito luogo comune e tutto. Cioè, io penso che noi viviamo un ambiente talmente d'alto livello che purtroppo non ci si rende conto che questi ragazzini, perché sono tutti ragazzini, che scendono in campo super mega pagati, il solito discorso insomma che si fa, e noi dobbiamo renderci conto anche di una certa situazione che viviamo. Lo so che questo è il solito luogo comune che si dice e che non si dice, però sono super mega viziati. Io ieri, allora, considerate che sono interista, ero tifosissimo tanti anni fa, ora diciamo da quasi cinquantenne mi è passata la voglia dalle ultime schifezze calcistiche che abbiamo visto. Quali? Fa passare la voglia. A cosa si riferisce di preciso? No, diciamo di scandali contro scandali, giocatori insomma super mega pagati che si sono venduti, vabbè, quelli che abbiamo letto sui giornali, è tutta questa prassi. Io però sono stato sempre un affezionato al Milan, diciamo, perché mi è sempre piaciuto dall'era di Sacchi, quindi è una squadra che ho sempre visto. Sì. Io ieri sera, ad esempio, vedendo il magico Palotelli, giusto, che in televisione veniva ripreso più volte con l'immagine proprio scalata al 100%, atteggiamenti proprio da super big, ma non solo per lui, per tutti quanti. Quindi io dico, anche da parte nostra, da parte nostra, anche se questi programmi sono importanti da un punto di vista calcistico, però non esageriamo, che parliamo sempre di giocatori, di ragazzini super mega viziati. Sì, va bene, ma mi sembra che siete voi ad esagerare, dai, Sergio, fai bravo. Ma siamo sempre a fare gli stessi discorsi e gli scandali e quanto guadagnano questi. Ripeto, vedevo un istante fa Usain Bolt, è vero, è l'uomo più veloce del mondo, ma non corre per le noccioline. È un multimiliardario anche lui. Perché un multimiliardario? Perché fa cassetta per le leggi del mercato, eccetera, eccetera. Non fatemi recitare A-Rod, che è il primo che mi viene in mente. Guardiamo gli stipendi dei giocatori americani e, come dico tutte le volte, dei cantanti. Andare a vedere un concerto quanto costa, non lo so, non ci sono mai andato, 50 euro, 100 euro. E quanto becca il cantante che fa il concerto, e quanto becca dalla vendita dei dischi della musica, e quanto costa un Picasso, e quanto, insomma, possiamo, e chi scrive libri best seller di successo, e quanti soldi guadagna la scrittrice di Harry Potter, e possiamo andare avanti tutta la vita. Io non mi sembra puro qualunquismo questo di dire, allora quelli guadagnano, bastardi. Perché? Balotelli, ma anche su Balotelli siete strani. Una volta abbiamo un giocatore italiano di grande talento, con dei difetti, può essere antipatico, fa un sacco di stupidaggini. Ma secondo me dovremmo così sperare che risolva questi problemi con se stesso, magari, e che porti in alto la nazionale. Invece no, diamogli addosso. Caccia il Balotelli. Va bene. Sergio, provincia di Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ieri sera, a proposito delle famiglie e bambini allo stadio, sì, ero allo stadio San Siro, secondo Anello Verde, e secondo me bambini ce n'erano fin troppi, cioè famiglie, bambini. Sì, ma sa, cioè, ma è un modo di dire che mette d'accordo tutti, no? Portiamo, sì, ma veramente. Riportiamo le famiglie agli stadi. Sì, sì, ma ce n'erano a volontà, se non hanno avuto nessun tipo di problema. Ma sa cosa che gli stadi fanno schifo, e l'accesso agli stadi è molto costoso e è molto difficile. Però ieri comunque con 20 euro a persona si entrava allo stadio, si è vista la partita senza rischiare, senza, ma certo, in allegria e serenità, ecco, questo. Quello che mi... Quando sono andato a casa ho visto Allegri che diceva della barca, il gommone, e io ero lì, avrei voluto dargli i soldi per la benzina del gommone. La barca e il gommone, no, perché c'è anche questa storia della... Ma perché se l'è presa con Sacchi, c'è tutto un disegno, una dietrologia secondo cui la ricostruzione è questa. L'altro giorno su Tutto Sport Vittorio Feltri ha scritto un fondo in cui, insomma, auspicava magari un dopo Allegri con Davis Mangia, che è un pupillo di Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi spesso ha criticato il gioco del Milan, eccetera, eccetera. E allora Allegri, che si sente un po' accerchiato dai media di casa, questo si dice anche così, soprattutto ai microfoni di Mediaset, ha perso la bussola per la barca. Gigi Torino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo fare una piccola domanda al signor Mondonico. Allora facciamo domani. Del Torino. Gigi, facciamo così. Adesso sì. siamo in scadenza di puntata, non di contratto, per fortuna. Perché quello per parlare bene di Balotelli me l'hanno già rinnovato. No, ma al di là di questo, l'aspetto domani quando avremo Emiliano Mondonico, perché adesso è in viaggio e quindi non posso farle fare la domanda che lei vuole. Però, se domani ha tempo, a due minuti, noi la richiamiamo volentierissimo. Ci fermiamo. Giorgio De Luca, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Grazie a tutti, ciao. Questo Raikkonen è uno straordinario, vedi anche gli sport sì, che sì, fanno sì. fare, no? È meraviglioso, che dice c'è il pescatore, non so se l'hai visto, no? Cosa fai qui? Holidays? Sei qui in vacanza? No. No. Business? Sei qui per affari? No. No. Friends? Sei qui per amore? No. No. Why are you so far away from home? Allora perché sei qui? E lui risponde, I have no idea, no? I have no idea. Non lo so.